La strada riesce a trasformare anche il cosiddetto buon padre di famiglia, la persona più mite, in un soggetto che sa aggredire sorprendendo anche se stesso. Sull'asfalto si litiga, si picchia e si uccide anche. Ma perché? Questa settimana a ciascuno il suo va sulle strade violente d'Italia. Partiamo sabato mattina alle 8:30 su Radio 24. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.